Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna in diretta dagli studi di Via Zanardi con il Breakfast Club, un last minute che comprende la giornata di sabato, quindi di inizio ufficiale di weekend, il 7 ottobre, ovviamente 2023. Domani dalle ore 17 la lunga scia della censura nella storia del fumetto e della satira. Il titolo è Il bavaglio a Paperino. Grazie al comitato di ricerca Associazione Pionieri vicino a Radio Città Fujiko e con noi appunto Morena Moretti. Buongiorno Morena, benvenuta. Buongiorno. Grazie della levataccia, insomma, per poter dare anticipazione di questo incontro. Ma chi metteva la censura, il bavaglio Paperino? Come si può fare una cosa del genere, Morena? Succede, perché i primi che l'hanno fatto sono stati gli americani nel 54, in epoca del maccartismo, con l'Authority Code, che comunque era di fatto un'autocensura, partendo proprio dal ragionamento della difesa dei bambini, cosa che sappiamo è accaduto anche ultimamente con la letteratura per l'infanzia, e che qualcuno vorrebbe epurare in nome del politicamente corretto, no? Queste parole tipo come grasso, brutto, che qualcuno vorrebbe cancellare, anche in alcuni casi come nella fabbrica di cioccolato è stato anche fatto, e questa proposta continua comunque a circolare. Quindi la censura ha una lunga storia e ha coinvolto nel tempo di fatto tantissimi autori, tantissime pubblicazioni, soprattutto anche i giornali illustrati e i giornali di satira, come ricordiamo tutti il Male, di cui ci sarà tra l'altro una bella mostra di pezzi scelti dai nostri archivisti proprio in questa iniziativa. Certo. E quindi, E oltretutto, no scusa, stavo pensando proprio al personaggio di Paperino, che come tutta la dinastia dei Paperi viene rappresentato non in discendenza diretta, sono sempre cugini, nipoti, nipotini. Sì, sarebbero da censurare anche loro, perché non è una famiglia proprio perfetta. Esattamente, questa, tradizionale, per quello esatto. Ti ho interrotto. Insomma, saremo a Villa Paradiso, in via Emilia Levante 138, l'incontro inizia alle ore 17, e vedo una platea quanto mai estesa di ospiti. Ci puoi dire qualcosa di... Sì, è una platea, è un'ottima platea, perché a loro porremo appunto queste domande: quanto è appunto attuale la censura oggi, che cosa significa autocensura, eccetera. Luigi Bona è direttore del WOW di Milano, lui sulla censura ha lavorato molto, già nell'81 nella sua fanzine se ne occupò. Poi abbiamo Giuseppe Palumbo, che è anche un autoproduttore, noi lo conosciamo bene come fumettista, e produce anche in suo, ed è il problema dell'autocensura dell'autore, se lo pone spesso, perché a volte l'autore, ma anche gli editori, prima di pubblicare o prima di praticano di fatto una limitazione a se stessi, quasi, quindi proprio anche alla creatività, ed è un approccio anche abbastanza pericoloso, diciamo. Elettra Stambulis è una sceneggiatrice e curatrice, lei parlerà in particolare dei fumetti fuori dall'Italia, quindi che cosa accade nel resto del mondo, e probabilmente ci stupiremo anche di sentire che non ci racconterà solo dei tra virgolette soliti paesi che tutti possiamo immaginare, ma anche di altre situazioni che noi immaginiamo molto più libere e democratiche. Marco Fincardi, che è storico, si occuperà del Pioniere, perché anche il Pioniere, cioè il giornalino illustrato dell'associazione Pionieri degli anni 50, fu perseguitato in questo caso soprattutto dalla Chiesa, che scomunicò sia il giornalino che proprio i bambini, tutta l'associazione. Tutti i lettori, infine abbiamo... quindi. Esatto. È preso un po' in grande linea. Scusa, in conclusione? Sì, in conclusione l'ultimo, volevo dire Giuseppe Chiarello, che è il presidente dell'archivio Vinicio Berti, e Vinicio Berti anche è un autore del Pioniere, e lui come artista strazista anche fu in qualche modo molto osteggiato in questo caso dal Partito Comunista, ma insomma comunque siccome era un autore del Pioniere ci interessava anche vedere questi aspetti della censura, che poi passa anche attraverso le denunce, cioè i processi, come accade a molti giornalisti e autori del Male appunto, che presenteremo in mostra come dicevo prima. certo, e poi aggiungo che dopo uno stacco che comprenderà un momento di convivio alle ore 20 con aperitivo, alle ore 21 ci sarà la presentazione della graphic novel Il racconto della roccia con l'autrice Benedì e Luca Baldazzi, redattore di Coconino Press. Come ha già ricordato Morena, sotto il tendone una selezione di pagine dalla rivista satirica Il Male, e io concludo insomma con una domanda un po' pensando alla censura tra la fine degli anni 60, poi in seguito con tutto quello che è stato negli anni 70, parte degli anni 80, e la censura adesso. Cos'è cambiato, Morena? Qual è? C'è un filo rosso che lega la censura? È cambiato che è meno visibile. Infatti i nostri ospiti parlano di invisibilità della censura, è più sottile e ce ne accorgiamo meno, forse perché siamo anche un po' più distratti. Però io credo che sabato sviscereremo il tema a fondo, perché tutti questi ospiti che abbiamo con noi sicuramente hanno riflettuto molto sul tema, anche perché sono coinvolti personalmente anche proprio per motivi professionali diretti. Quindi diretti, sì. Quindi la censura esiste ancora, magari non la vediamo, ma poi scopriremo anche come stanarla, diciamo, sì, così. Come individuarla, certo, anche un po' sì. Una distrazione culturale che è tristemente dominante in questa epoca, in seguito poi si è raffinata proprio per colpire in maniera invisibile, argomentazioni varie a tal proposito per togliere questo bavaglio a Paperino che possa continuare, sì, insomma, a lamentarsi, sai che no, lui con questi atteggiamenti molto a volte irascibili diceva poi insomma un motivo in più per lasciarlo libero. Sarà sì, Paperino l'abbiamo preso come, sì, come esatto, proprio emblema, diciamo, ecco, sì, personaggio emblematico. Si lamenta insomma, sì, sempre qualcosa da dire, giustamente, esatto. A Villa Paradiso, Bologna, ovviamente, via Emilia Levante 138, l'incontro inizierà dalle ore 17 e sarà per la giornata di domani, sabato 7 ottobre, a cura del Comitato Ricerca Associazione Pionieri con Radio Città Fujiko e l'Associazione Culturale Villa Paradiso. Grazie Morena, una buona giornata. Grazie Willy, grazie. Ciao, buona giornata. Donald Duck. Paolino Paperino per l'Italia e rappresenta un po' la protesta, se vogliamo, se di protesta possiamo parlare all'interno del panorama Disney, che aggiungo grandissimo ovviamente talento, io stesso lettore in tenera età, ci mancherebbe, però chiaramente è di sistema, è un autore estremamente reazionario, è molto reazionario. Tra l'altro lui coinvolto Walt Disney partecipazione per i servizi dagli Stati Uniti d'America in maniera diretta. Io ho sempre amato Paperoga, il pasticcione, quindi è un po' antipatico Gastone. Erano tutti cugini comunque alla fine, eh? A breve la pubblicità, rientriamo poi per iniziare la rubrica in scena del venerdì. Domani alle ore 17 si inizia con l'incontro sulla lunga scia della censura nella storia del fumetto e della satira, il bavaglio a Paperino, grazie al comitato di ricerca Associazioni Pionieri. Poi torniamo per alzare il sipario ufficialmente. Non sarà esattamente teatro, però abbiamo un fuori programma al quale per ogni inizio stagione il Breakfast Club insomma ci tiene a portare questi ospiti in diretta che avremo tra poco. Buon ascolto.